Angela. Papa! Tata! Mama, komm auf das Ende! Papa! Papa! Ja, Mann! Chi è? Buonasera, buonasera. Capo, mamma mia, ho preso il microfono, scusa. Stavo chiamando. Ciao ciao. Attenzione, binario 10, gaffa. Avanti. Attenzione, binario 10, gappa! Tu dici di vedere che ti ho avuto la prima baracchina parlando. Sì, no, è docca, ecco. Ce lo fanno, allora. Scendeva. Beh, è più casino. Come pensavo, l'effetti 250. E me l'ha acceso lì, un giorno. L'ha acceso lì, l'ha accordato lì. Che diavolo è? Stava già fanna, Coca-Cola. Avanti tu. Attenzione, Antonello Pompone, si ascolti qua dall'isola della Sicilia, gappa. Sì, ma eccolo, tu sei dimenticato però. Antonello Pompone, si ascolti qua dall'isola della Sicilia, gappa. Adesso giacerai, adesso giacerai, a voglia. Ciao, ciao, cambio. Un po' più lento dovrebbe andare. Così. Diminuisci la velocità. C'è cosa per diminuire la velocità. Ecco qua. Vedi un po' così, capo capo. Leggermente. Così è più lento, aspetta, ecco. Capo, questi sono fatti così, Rogero, ciao ciao, Antu. ci sentiamo, ciao Antonio, ciao ciao, stiamo facendo la prova. Ora va bene. Ehi, a capo, ciao. Ehi, a ciao, ci sentiamo. Adesso va bene. Cosa sei tu? Non si toccano un capolo! Che me ne togli l'antenna! Madonna, che mi fanno arrabbiarmi! Cavolo, mamma mia, tocca tutto, tocca! Aspetta che sta arrivando zia, un attimo di bianco! Via! Ma dove ci sei ancora? Antonio Pongolino, se vai ascoltando qua, vatto! Antonio Pongolino, gappa gappa!